9 in punto. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori e benvenuti a 9 in punto. Come si diceva già nell'anticipazione, oggi vogliamo partire dalla vicenda di ieri di Terni, che vi abbiamo ampiamente raccontato nei giornali radio, che avete letto o che insomma state per leggere sui giornali e che avete visto nei telegiornali, ossia gli scontri che ci sono stati durante la manifestazione dei lavoratori ex Thyssen, tensioni appunto tra la polizia e i manifestanti, che si sono risolte quanto pare con delle cariche. È stato ferito il sindaco di Terni. I sindacati di polizia dicono che si tratta in realtà di un'ombrellata presa in testa da un altro manifestante. Hanno portato un video a supporto dal quale in realtà non si capisce moltissimo, a dire il vero, insomma, ad essere sinceri. E però in realtà vogliamo allargare il discorso e vogliamo ragionare un po' sul tema della pace sociale. C'è già chi dice che questo periodo tutto sommato fortunato da questo punto di vista che abbiamo attraversato causa anche la disoccupazione. Ieri i dati di Confindustria dicono che in 5 anni, tra il 2007 e il 2012, nell'industria si sono persi 539.000 posti di lavoro. I dati, la situazione ce l'abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, e in 4 anni sono state chiuse 55.000 aziende. Insomma, se questa pace sociale, della quale finora abbiamo beneficiato, è a rischio. Saluto innanzitutto il vice ministro all'interno, Filippo Bubbico. Buongiorno. Buongiorno. Inizierei però dal caso particolare, perché comunque una nota di cronaca la vogliamo mettere. È piuttosto confusa la vicenda di Terni, mi sembra di capire al momento, vice ministro. Beh, la vicenda di Terni merita di essere approfondita, compresa in tutte le sue articolazioni, ma non possiamo non esprimere in questo momento intanto la solidarietà al sindaco e ai lavoratori coinvolti in questa vicenda e assicurare da parte nostra il massimo del rigore nella valutazione dei fatti, perché quanto accaduto è comunque un segnale di cui dobbiamo occuparci. La crisi è molto grave, e noi non dobbiamo mai rompere quel rapporto di solidarietà e di impegno comune tra lo Stato e i cittadini che vivono una condizione di disagio inimmaginabile sino a qualche tempo fa. C'è chi parla comunque di eccessi nella vicenda da parte della polizia, anche solo nello schieramento del numero di poliziotti rispetto ad una zona, appunto quella di Terni, a una manifestazione che si prospettava appunto pacifica. Ma normalmente lo schieramento delle forze di polizia serve a garantire la sicurezza e l'ordine, serve in modo particolare a garantire che i cittadini possano manifestare tranquillamente. La storia delle lotte sindacali, delle battaglie civili del nostro paese è segnata da questa capacità di grande responsabilità da parte dei lavoratori, da parte dei cittadini che manifestavano e manifestano anche con grande determinazione, e dall'altra parte delle forze di polizia che con grande competenza, con grande capacità hanno saputo accompagnare questi processi a garanzia dei diritti dei cittadini, ma anche a tutela degli interessi generali. Penso che questa caratterizzazione delle nostre forze di polizia non possa e non debba venire mai meno. Quindi la sostanza è che in questo momento non si sente di rispondere sul fatto se ci fosse uno schieramento eccessivo di forze dell'ordine in quella situazione. Lo schieramento non rappresenta un fattore di minaccia, rappresenta invece un fattore di sicurezza. Purtroppo noi in questo momento lamentiamo le difficoltà, i disagi che derivano anche dalla scarsità numerica delle forze di polizia, perché la crisi finanziaria che il nostro paese sta vivendo e che si è imposta nel corso degli ultimi anni ha determinato il blocco delle assunzioni, ad esempio. Quindi c'è un problema di carenze più che di eccesso, dice lei. La presenza non deve, la storia ci dice che la presenza anche massiccia delle forze di polizia non ha mai rappresentato una minaccia o una limitazione della libertà di manifestazione da parte dei cittadini, anzi ha rappresentato un fattore di garanzia e di tutela, perché soprattutto nei momenti complicati, e questo che viviamo oggi è un momento particolarmente complicato, può accadere che si possano generare situazioni conflittuali per rompere un equilibrio sociale, per introdurre fattori di tensione che complicano le nostre vicende piuttosto che aiutarci a superarle. E vedete questi rischi voi a questo punto? Beh, è che la situazione è complicata. Il disagio sociale, quando una persona perde il lavoro, ha tutto il diritto di manifestare e merita tutta la nostra comprensione, e il governo da questo punto di vista deve fare ancora di più e ancora meglio la propria parte. Il presidente Letta si sta muovendo perché l'Unione Europea superi la politica dell'austerità che brucia ricchezza piuttosto che aiutarci a recuperare equilibrio finanziario, equilibrio economico. E in situazioni di questo genere serve il massimo della capacità e anche dell'equilibrio da parte di tutti. E il movimento, dei lavoratori, la storia del movimento sindacale e delle manifestazioni del nostro paese, anche quelle non direttamente organizzate dai sindacati, mettono in evidenza una capacità di autocontrollo, di equilibrio. Gliela faccio molto, molto diretta la domanda, Vice Ministro. Lei vede una pace sociale a rischio in questo paese? Io trovo che oggi viviamo una condizione di disagio sociale, perché se per pace sociale si dovesse intendere rassegnazione e acquiescenza, io sarei molto preoccupato. Oggi c'è una situazione difficile che richiede anche il protagonismo da parte di tutti, perché noi usciamo dalla crisi. Però attenzione, mi scusi Vice Ministro, a domanda diretta le chiedo risposta diretta. Intendo questo: lei teme, voi temete che da una situazione di difficoltà e di disagio sociale, che ha, come diceva lei giustamente, tutto il diritto di esprimersi in varie forme, derivino forme di violenza? Avete timori di questo tipo? Beh, i fattori sì, questi timori ci sono, e sono motivati esattamente dalla gravità della situazione che stiamo vivendo, e storicamente questi due fattori si accompagnano. E questo è un elemento interessante. Saluto Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, buongiorno. Buongiorno. Io le rivolgo a questo punto, da sociologo e quindi da analista della società italiana, la stessa domanda che ho rivolto al viceministro Bubbico, se lei vede questa pace sociale a rischio, che sia minato tutto sommato un periodo abbastanza felice da questo punto di vista. Felice intendo che, nonostante questa massiccia perdita di posti di lavoro testimoniata dai dati di Confindustria di ieri, 500.000 solo nell'industria tra il 2007 e il 2012, è stata felice perché non è sfociata in niente di preoccupante. Ecco, c'è qualche rischio da questo lato, secondo lei? Ma guardi, se parliamo di rischi, i rischi ci sono sempre, anche nelle nostre indagini, anche più recenti, affiora questo senso di disagio che potrebbe anche portare a un atteggiamento di rabbia e quindi di conflitto. Io onestamente penso che nonostante episodi ci potranno essere come quelli che sono successi ieri, noi continuiamo ad essere un paese che ha abbastanza sotto controllo questa conflittualità di piazza, diciamo, conflittualità anche se vogliamo violenta, e quindi con la prudenza del caso io dico che noi ci troviamo di fronte certamente una situazione molto dura, con gruppi sociali che sia territorialmente che come tipologia, quindi possono essere alcune città, alcuni territori, magari più del sud, magari più delle classi d'età centrali, quarantenni, cinquantenni, eccetera. Quindi questo potrà avvenire, però io non vedo un'area di rivolta, diciamo così, un'area di... perché la rabbia si accompagna alla preoccupazione. Infatti io dico che noi siamo in una situazione di rabbia preoccupata, e poi questa rabbia molto spesso non si rivolge tanto genericamente ai conflitti sociali tradizionali, quelli sindacali oppure quelli politici generali o se vogliamo la difesa del territorio. Io penso che questa rabbia sia una rabbia perché non si hanno segnali di controtendenza rispetto a una crisi che dura da 5 anni e che quindi è una crisi molto dura, e in cui tutto sommato gli italiani si sono potuti difendere grazie al fatto che negli anni precedenti avevano messo da parte qualcosa, che hanno una casa, che non si trovano in mezzo alla strada se perdono il posto di lavoro. Cioè ci sono delle condizioni, ci sono degli ammortizzatori particolari. Consideriamo per esempio la giornata di ieri molto particolare, perché stiamo parlando di Terni. Terni è una realtà che storicamente è nata attorno alla Terni, perché la Thyssen si chiamava Terni, no? Diciamo, gli acciai, eccetera, cioè l'industria di Stato, quindi un'abitudine anche a una certa sicurezza che negli anni si è andata perdendo. Se vogliamo, lo stesso Fabriano, la stessa cosa, è nata attorno ai Merloni, alle diverse attività dei tre fratelli Merloni che nel tempo hanno avuto bisogno di una ristrutturazione. Quindi mi immagino che lì lo stacco è stato molto forte, cioè dalla sicurezza assoluta del posto fisso in una grande fabbrica delle partecipazioni statali o nel posto dove l'industria privata, cioè la Merloni, aveva creato praticamente dal nulla una realtà industriale importantissima, c'è il momento della ristrutturazione, quindi si capisce che lì si entra in tensione, si entra in forte fibrillazione. In generale io credo che gli italiani stiano più aspettando una svolta sia dal punto di vista della moralità, della politica, e dall'altra parte probabilmente una svolta dell'economia. Allora, se questa tarda ad arrivare, come giustamente ieri Confindustria ha detto, qui ci sono centinaia di migliaia di posti bruciati, ma soprattutto anche di imprese, e noi non possiamo pensare che l'occupazione aumenti se non aumenta la capacità delle imprese di produrre. Quindi è lì che dobbiamo puntare, non sono tanti. È inutile, va sempre bene, ma lo sgravio fiscale rispetto a un'azienda che non ha le condizioni per aumentare la sua produzione è inutile, insomma. Certo, allora aspetto i vostri interventi all'800 24 00 24. Allora, io so che il viceministro Bubbico ci deve salutare tra un attimo, e quindi io, prima di salutarlo, ho ancora un paio di domande molto rapide, a dire la verità, sulla vicenda di Terni. Ci dice, perché la questione riguarda anche l'ordine pubblico, mi scrive un ascoltatore via Twitter una cosa interessante, cioè dice, insomma, anche in Turchia la polizia ha un numero identificativo sul casco, dice, e tra l'altro questa è una richiesta che ci ha fatto, se non erro, esplicitamente l'Europa, cioè una richiesta del Parlamento Europeo in questo senso. Pensa che è una cosa che si possa adottare, ci si possa pensare a questo, farlo anche abbastanza rapidamente? Questo è un tema che è stato spesso segnalato negli ultimi tempi, io credo che meriti un'attenzione. Noi abbiamo il dovere di costruire i processi di armonizzazione con le regole europee, Credo che la questione debba essere affrontata e risolta nella a garanzia del corretto funzionamento e anche a tutela dei diritti dei lavoratori della polizia. Mi scusi, quindi lei è favorevole sostanzialmente? Che la questione vada approfondita. Personalmente non ho un'opinione compiuta al riguardo, è un tema però che va affrontato. Ultima domanda che le faccio, sempre sulla vicenda di Terni, c'è chi ha scritto oggi sui giornali, se non erro il Corriere della Sera, insomma, che l'ampio schieramento di polizia del quale abbiamo parlato poco fa, lei dice giustamente, in realtà in genere il problema è opposto, però insomma pare che ci fossero molti poliziotti a Terni, è dovuto al fatto che si temevano infiltrazioni di qualche tipo all'interno della manifestazione, ce lo può confermare? Questa è una preoccupazione crescente, perché appunto nelle situazioni di grave difficoltà diciamo, si creano le condizioni ottimali perché diciamo, chi ha interesse a intorbidire il clima possa farlo, e quindi essere attenti mi pare una preoccupazione più che fondata. E nel caso di Terni non ce lo sa ancora dire sostanzialmente? Io penso che a Terni il servizio abbia seguito, diciamo, le ordinarie procedure, non mi pare ci fossero particolari situazioni di allarme, anche perché la storia delle lotte sindacali, delle lotte operaie in quella città, la tradizione di grande civiltà della classe operaia di quella città e di quel settore produttivo rappresenta una garanzia circa il rispetto delle regole del gioco, il rispetto e la tutela degli interessi generali. Grazie Vice Ministro per essere stato con noi e buona giornata. Grazie a voi. 9 in punto. A proposito del rischio che le tensioni esplodano in forme di violenza, ci scrive Stefano Milziadi su Facebook, non ce lo si augura, ma il rischio penso sia direttamente proporzionale all'insoddisfazione e al malcontento generalizzato. David Greco, la pace sociale è destinata a saltare se un ingegnere guadagna la metà di un tassista e 7 volte meno che un notaio. C'è chi parla, vabbè, di bastonate ai politici, lasciamo perdere. Veniamo agli ascoltatori al telefono. Andrea da Bologna, sì, da Bologna. Buongiorno Andrea. Sì, salute, buongiorno. Ma io mi sembra che ci sia un elemento che ancora forse non avete trattato durante la conversazione di stamattina. C'è in politica da parte di alcune forze emergenti un linguaggio che, sentivo adesso la citazione, quella delle bastonate ai politici, cioè mi sembra ci sia una grossa sottovalutazione del fatto che c'è molta gente che sta rinfocolando questo odio sociale, cioè non tutti stanno remando dalla parte per cercare di trovare soluzioni pratiche, qua c'è anche tanti che giocano anche per consenso elettorale a un po' al massacro, perché mi sembra che ci sia una grossa dimenticanza del fatto che poi occhio per occhio si diventa ciechi, cioè non si va da nessuna parte, e invece sento questa continua rinfocolamento del seppelliremo, del vi tireremo sotto e sono tutti uguali e quando saremo lì vi raggiungeremo, vi porteremo sottoterra, cioè mi sembra che c'è una generale sottovalutazione che dal linguaggio violento non è poi così lontano il passaggio all'azione violenta, ecco tutto qui. Grazie Andrea per la sua valutazione, una bella riflessione, una riflessione interessante secondo me. Sentiamo Gianluca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, l'argomento in realtà l'ha toccato appena lei adesso, ma quale pace sociale quando un parlamentare va in pensione con 6 mesi e un giorno di lavoro? È semplicemente ridicolo, forse l'hanno fatto apposta, noi ci andiamo dopo 65 anni. Non è 10 volte tanto, ma insomma ognuno faccia le sue considerazioni. Come si fa e quindi non lo snodo qual è? Ma perché l'INPS non pubblica quanto ci costano queste pensioni e vediamo un attimino per risanare il bilancio quanto ci mettiamo? Se in effetti una persona avesse lavorato 65 anni in Parlamento è giusto che si becchi la pensione, ma se ci ha lavorato 6 mesi o un giorno può anche andare a casa e poi, magari impegnarsi ancora. In realtà là le regole stanno cambiando naturalmente, però insomma capisco il ragionamento, non capisco lo snodo di dove questo porti alla rottura della pace sociale. Comunque sentiamo anche Blando da Bergamo, ho capito bene? Sì. Salve, prego. Salve. Ascolta, io sono qui, faccio il portiere in una grossa azienda e volevo intervenire sulla trasmissione. Sì. Ho sentito prima il sottosegretario, mi sembra. Viceministro, che era. Sì. Sì, è il sottoministro. Non si rendono conto, io qua ricevo ogni giorno, cioè non uno, due, tre domande di lavoro, ma 30-40 al giorno e la gente è così arrabbiata. Ma arrabbiata, devo fare ogni volta discussione perché la gente è così tesa che non trova lavoro e che ha i figli che hanno esigenze e cose. Mi è capitato anche l'altro giorno di dare 10 euro a una persona perché non sapeva come andare a comprare il latte per i figli. Grazie. Non si rendono conto poi mi dicono che ci sono scontri con la polizia, per forza al minimo gesto la gente così tesa salta in aria. Grazie Blando anche per la sua testimonianza. Salvatore dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno. Allora io volevo premettere, che sono... Le premetto io una cosa, alla radio accesa? Sì, la spenga perché sennò c'è un eco insostenibile. Ma quante volte, Salvatore, ma quante volte ve la dobbiamo dire questa cosa? Comunque vada. Vabbè. Allora, dicevo, io prometto che sono una persona non violenta, che non frequento manifestazioni, non ci vado mai e di solito cerco di convincere anche le persone che conosco a non andarci, perché sono convinto che non sia quello il modo di procedere. Anche nelle manifestazioni pacifiche penso che siano piuttosto una perdita di tempo. Devo però dire che, pensandoci, se io fossi un manifestante e mi ritrovassi picchiato da una persona che sta facendo il suo lavoro, perché sta caricando dietro ordine di qualcuno, indossando un casco, essendo irriconoscibile in quanto membro, diciamo, di questa organizzazione che dovrebbe tutelare il bene comune, la polizia, diciamo. Se ci restassi picchiato, penso che ci resterei molto male, non tanto dal lato fisico, ma dal lato morale, perché a quel punto, visto che io sono stato picchiato da una persona generica, Salvatore, stringendo dermela contro qualcosa di generico. Quali organizzazioni e istituzioni, diciamo, anche statali. È chiaro che a quel punto, se nessun giudice ha vietato l'uso della forza, e io mi ritrovo con l'uso della forza applicato su di me, sarebbe illogico rivolgersi a un giudice per procedere contro l'istituzione che la forza e quindi, stringa Salvatore. Salvatore, quindi credo che lì ci sia il vero pericolo. Bene, grazie Salvatore. Allora, Giuseppe Roma, anche lui deve salutarci tra poco, quindi gli chiedo un ultimo commento anche su quello che ha sentito dagli ascoltatori, insomma, dalle riflessioni, anche quelle che abbiamo letto su Facebook, insomma, alcuni. Mi ha colpito particolarmente, devo dire la verità, la testimonianza di Blando, quel portiere di un'azienda a Bergamo, che dice riceviamo tra le 30 e le 40 lettere al giorno dove ci chiedono lavoro, sono arrivato a dare 10 euro ad una persona che insomma non ha nemmeno il latte da dare ai suoi figli. Roma. Ma secondo me queste parole sono straordinariamente tutte, compongono il quadro. Dobbiamo partire da questo stato di difficoltà, di disperazione, appunto, persino in una realtà come Bergamo, forse penso quella più produttiva o una delle più produttive d'Italia, è chiaro che anche lì si sta creando questo enorme problema che magari non è di un padre, è di un fratello, di qualcuno che cerca un lavoro per qualche giovane, no? Quindi c'è una disperazione, però c'è anche qualche strumento ancora di resistenza, insomma. E dall'altra parte io vedo, anche qui sono emerso nelle telefonate, che la rabbia è soprattutto rivolta contro i privilegi, no? Diceva l'ascoltatore, ma è possibile, le pensioni, insomma tutto il tema che riguarda il fatto che a fronte di questo disagio così diffuso, soprattutto nel mondo giovanile, poi continuano a esserci delle distorsioni paurose, soprattutto nell'ambito pubblico, nell'ambito politico, nell'ambito istituzionale, i privilegi, la corruzione, eccetera, eccetera. Quindi è una rabbia che si indirizza più su questo aspetto rispetto ad altri periodi della nostra storia in cui era una conflittualità di fabbrica, era contro il padrone, diciamo così. E poi un tipo di disagio Roma in parte canalizzato anche dal Movimento 5 Stelle a questo punto. Esatto, e questo gli altri due piccoli punti che mi venivano dagli spunti era il discorso del linguaggio violento, del fatto che qualcuno poi alla fine impersona questa voglia, che come al solito la rabbia è stessa impotente, no? Più la dici grossa, meno poi alla fine incidi sulla realtà, però in termini di coagulo dell'opinione pubblica è una canalizzazione, questi sentimenti, che sono sentimenti di difficoltà in un paese che sembrerebbe incapace di gestirli, poi hanno avuto quella manifestazione eclatante nel Movimento 5 Stelle, che però come dire, anche lì è tutto molto incerto e molto instabile, perché il 25% delle elezioni politiche, poi dopo due mesi non si hanno risultati e finisce per essere un voto che ritorna nell'astensionismo, come è successo nelle politiche, no? Poi chiaramente la gestione, parlate soprattutto di violenza, è chiaro che poi la gestione del conflitto deve essere molto attenta, perché effettivamente se poi io c'è qualche eccesso nella gestione della piazza, e lì si possono innescare veramente dei problemi. Lo sappiamo benissimo che mentre una relazione, pur dovendo mantenere l'ordine pubblico, perché poi non dobbiamo dimenticarci che mi pare che una di queste manifestazioni dovesse bloccare dei binari, eccetera, eccetera. Quindi però va tenuto, ma questo l'ha detto il Presidente del Consiglio, l'ha detto il Ministro degli Interni ieri, va tenuto un atteggiamento tale per cui stiamo parlando con persone che hanno dei problemi, con lavoratori che perdono il posto di lavoro, e quindi vanno accompagnati verso forme assolutamente legali di protesta, però chiaro che alzare il livello dello scontro veramente potrebbe essere una cosa rovinosa, perché come si sa innescano a catena reazioni, come ci diceva l'ultimo ascoltatore Salvatore, esatto, ci chiama da Padova. Grazie Giuseppe Roma e buona giornata. Grazie a lei. E saluto Leopoldo Di Girolamo, sindaco di Terni. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Ha finito l'intervista con Agora Rai, che la stavamo cercando da stamattina alle 9:10, che avevamo appuntamento. Allora partiamo, insomma, manganello ombrello, sindaco. Ma guardi, questo non è assolutamente significativo, io non ho sporto nessuna denuncia e quindi non mi importa come mi è stata causata la lesione. Il fatto fondamentale è che non c'è stato un controllo adeguato della manifestazione che evitasse gli scontri e quindi le colluttazioni e poi appunto gli incidenti che si sono verificati. Quindi, come dire, lei non ha la certezza di cosa sia stato a colpirla? Io stavo fra la testa, diciamo, dei manifestanti e la fila della polizia schierata, e quindi c'è stata una spinta verso il cordone di polizia che ci ha respinto con gli scudi e poi appunto usando i manganelli. Io mi sono voltato per dire ai manifestanti di tirarsi indietro in modo da evitare di avere conseguenze, e ho sentito un colpo forte al capo e ho sanguinato, e quindi ho supposto che fosse derivato appunto dalle manganellate, ma dicevo, ma questo alla fine è una cosa, come dire, che importa per la cronaca giudiziaria, qui stiamo parlando di politica e quindi altra cosa, insomma. Sì, tra l'altro arriva adesso un'agenzia sempre per rimanere sulla cronaca, e poi abbiamo una pausa per la viabilità e poi invece la voglio anche sul tema più generale, sulla situazione di Terni. Dice un operaio di 36 anni di Narni, identificato dalla polizia come l'uomo che brandiva l'ombrello che avrete visto nelle immagini, sono io quello, ma non è assolutamente certo che abbia colpito il sindaco. Quindi la cosa rimarrà nell'aria, per così dire, finché eventualmente non si accerteranno i fatti. Certo che la questione rimane, di questo stiamo discutendo. Continuiamo a parlare appunto col sindaco di Terni Leopoldo di Girolamo per capire proprio anche più in generale se ieri ci sia stata una reazione eccessiva, insomma, è uno schieramento, si è detto anche uno schieramento di forze dell'ordine eccessivo, leggiamo oggi dai giornali, come avete sentito il viceministro Bubbico dice, insomma no, insomma mica tanto, in realtà era uno schieramento normale. Ecco, voglio sentire anche su questo il sindaco di Terni, ma tra un attimo. 9 in punto. Io lo devo dire, la cosa che mi lascia sempre perplesso, e mi riferisco a quello che sta scrivendo adesso un ascoltatore sulla nostra bacheca Facebook, è che a volte i sostenitori del Movimento 5 Stelle, con tutto il rispetto, non ascoltano quello che diciamo in questa trasmissione. Allora, a Ex Libris che ci scrive, ah eccoli qua a dare la colpa di tutto al Movimento 5 Stelle, vergognatevi, diciamo che in realtà abbiamo fatto l'esatto contrario, abbiamo dato forza ad una tesi in realtà che ha sostenuto Grillo, sempre con i suoi toni eccessivi naturalmente, ossia che il Movimento 5 Stelle ha canalizzato una forma di protesta, vuol dire che l'ha presa e l'ha trasportata nella sostanza nelle istituzioni, e quindi abbiamo fatto un discorso completamente diverso che non aveva nulla a che fare con un contrasto al Movimento 5 Stelle, era un discorso asettico e sull'impatto sociale che ha avuto questo movimento in termini di appunto protesta nei confronti della politica. Quindi per favore ascoltate le cose prima di commentare. Allora, sindaco di Girolamo, la situazione di Terni e insomma il rischio appunto di tensioni sociali del quale parlavamo poco fa con Giuseppe Roma e abbiamo parlato col viceministro Bubbico. Abbiamo i dati di Confindustria di ieri che sono quelli generali naturalmente, in 4 anni chiuse 55.000 aziende, tra il 2007 e il 2012 persi 539.000 posti di lavoro nell'industria, Terni è una città ultra industriale, insomma, che basa appunto molto del suo prodotto proprio sull'industria, in particolare sulle acciaierie, storicamente. Dunque vorrei capire da lei come state vivendo questa fase. Ma noi la stiamo vivendo con grandissima preoccupazione, perché i due assi industriali su cui si è basata sempre l'economia della città, quindi la siderurgia da una parte, la chimica dall'altra, stanno vivendo momenti difficili ma in maniera opposta. Nella chimica c'è una crisi del settore, c'è una delle aziende fondamentali del polo chimico, la Basel, che ha chiuso e non si riesce ad addivenire da parte di un consorzio pubblico-privato all'acquisto delle aree, dei capannoni per reindustrializzare l'area. E questo rischia di far precipitare anche le altre aziende presenti in una situazione di difficoltà finanziarie per i costi complessivi di tenuta dei servizi. E poi abbiamo invece la nostra acciaieria, che è estremamente competitiva, il primo impianto europeo per capacità produttive nell'inossidabile, grande, diciamo, competenze e capacità delle maestranze, gran parte del prodotto interno lordo della città, il 20% della regione deriva da questa, il 34% del mercato italiano e il 15% di quello europeo, che a causa delle procedure di vendita imposte dalla Commissione concorrenza dell'Europa dopo la fusione Outokumpu in Oxum sta riducendo la produzione, rischia di perdere mercato e quindi di arrivare in condizioni non competitive alla sfida appunto della ripresa. Sì. Dovrà essere venduta, tra l'altro ci sono a quanto sembra in campo alcune ipotesi italiane, no, di acquisto, se non sbaglio. Sono due soggetti che si sono fatti avanti, non c'è nessuna ufficialità sulle loro identità, ma noi crediamo che siano un gruppo che mette insieme Aperam, che è la consociata di ArcelorMittal, primo gruppo mondiale della siderurgia nel settore dell'inox, con alcuni imprenditori italiani, fra cui Arvedi e Marcegaglia, che sono fra i primi in questo settore. Sentiamo Cristiano dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, salve. Prego, molto rapidamente, dire, che abbiamo pochi minuti. Sì, prego. Molto conciso. Allora, riguardo alle forze dell'ordine che si comportano sempre in maniera professionale e corretta, volevo dire al sottosegretario che a me non sembra si siano comportati in maniera corretta, professionale al G8 come in tanti altri eventi e manifestazioni. D'altronde anche il caso di Terni, in cui si racconta, come dice il sindaco fra l'altro, che dalla dinamica appare chiaro che lui si è girato verso i manifestanti, quindi il colpo da dove lo deve aver subito, visto che alle spalle aveva i poliziotti. Quindi direi allora di finirla di dire che i poliziotti sono sempre, come dire, professionali e in qualche modo scagionati dall'opinione pubblica, perché non è così. Sappiamo benissimo che a volte ci vanno giù con la mano pesante. Grazie, certo, grazie Cristiano. Grazie Cristiano. No, il pensiero era chiaro, avevamo un po' questo effetto papa dalla balconata di San Pietro, perché ancora non avete imparato a spegnere la radio quando poi siete in diretta. Sindaco, rispondiamo a Cristiano, la polizia si è comportata male ieri, insomma, tutto sommato. Ma diciamo, secondo lei? Secondo me non si è compreso che la manifestazione poteva essere guidata e accompagnata senza che accadesse nulla, come è successo in 60 anni. Noi siamo, come dire, come diceva lei, una città industriale, abbiamo attraversato crisi molteplici del nostro apparato industriale, ma dagli anni 50 in poi non è mai successo che sia degenerata come stava accadendo ieri, perché c'è stato sempre un comportamento intelligente di cooperazione fra sindacati, istituzioni, forze di sicurezza. Ecco, ieri mi sembra che si sia voluto, diciamo, tenere un atteggiamento rigido, poco flessibile, che ha inasprito la situazione, creato tensione e poi si è arrivato anche a qualche scontro. Vediamo se abbiamo il tempo anche per un'ultima telefonata. Ciro dalla provincia di Caserta, ma deve stare in 40 secondi. Prego. Buongiorno a tutti, sarò velocissimo. Io credo che la violenza si possa praticamente evitare soltanto in un modo. La gente chiede risposte, si fanno manifestazioni pacifiche perché c'è un disagio sociale. Se praticamente dall'altra parte si è sordi e si è ciechi senza dare risposte, anzi vessazioni maggiori, la gente poi si arrabbia praticamente. È un'equazione molto molto semplice. Grazie Ciro, con il suo editoriale, diciamo così, che mi sento anche di condividere. Insomma, sono due o tre giorni che parliamo, anzi quattro giorni che parliamo solamente di presidenzialismo, insomma, come se fosse il vero problema del paese, per carità. Le riforme istituzionali sono importanti, bisogna vedere alla fine dove si va a parare. Grazie anche a lei, grazie a Leopoldo Di Girolamo, sindaco di Terni, chiedo scusa a Riccardo dalla provincia di Milano, Luca dalla provincia di Venezia e tutti gli altri che hanno chiamato e che non sono riuscito a far intervenire. Se volete continuare a parlare di questi argomenti c'è sempre la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/9in.radio24, oppure mi potete scrivere su Twitter, Simone Spezia, anche per segnalazioni, proteste, tutto quello che volete. 9in.radio24.it è la mail. Grazie Alessandro Marcotulli in redazione, Paolo Corleoni in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani in diretta da Santa Margherita Ligure, dove si apre il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. A domani. Ricordati! Mancano 25 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.